Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Fabio, esci dalla tenda che c'è qualcuno che ti vuole conoscere. Ci mancava solo questo. Dopo una giornata interminabile, avevo appena chiuso la zip della canadese. Esco così com'ero, in mutande e maglietta. Fabio, lui è il ministro della salute di Cuba. Sono Fabio Artuso, vivo a Bangkok, lavoro per la Banca Mondiale e copro i paesi del sud-est asiatico, quindi Thailandia, Cambogia, Laos, Myanmar, eccetera. Torbole, 12 settembre 1786, pomeriggio. Con che ardente desiderio vorrei che i miei amici si trovassero un momento qui con me per poter gioire della vista che mi sta innanzi. Per questa sera mi sarei già potuto trovare a Verona, ma a pochi passi da me c'era questo maestoso spettacolo della natura, questo delizioso quadro che è il Lago di Garda. Ed io non ho voluto rinunciarvi. Mi trovo generosamente compensato d'aver allungato il cammino. Sono partito da Rovereto dopo le 5, prendendo per una valle laterale che versa le sue acque ancora nell'Adige. Arrivato alla sommità si presenta in basso un enorme ciglione scosceso che si valica per poi scendere fino al lago. Si incontrano qui le più belle rupi calcaree che si potrebbero dire a studi pittoreschi. Scendendo fino in fondo si trova poi un paesello sulla punta settentrionale del lago col suo piccolo porto, o meglio luogo d'approdo, che chiamano Torbole. Lungo il cammino gli alberi del fico mi avevano già spesso tenuto compagnia e nello scendere per quell'anfiteatro di rocce ho trovato anche i primi ulivi carichi di bacche e anche per la prima volta, e comunissimi, quei piccoli fichi bianchi che la contessa Lantieri mi aveva fatto intravedere come una ghiottoneria. Dalla stanza in cui mi trovo una porta dà sul cortile, ho fatto avanzare un po' col mio tavolo e con pochi tratti ho disegnato la veduta. Il lago si vede per quasi tutta la sua lunghezza. Solo in fondo a sinistra si nasconde ai nostri occhi. Da ambo le parti le rive fiancheggiate da colli e da monti biancheggiano graziosamente di innumerevoli paesi. Dopo la mezzanotte il vento soffia da nord a sud, perciò chi vuole attraversare il lago per la lunghezza deve partire verso quell'ora. La corrente dei venti cambia infatti direzione qualche ora prima dell'alba e soffia verso nord. Proprio adesso, cioè dopo mezzogiorno, il vento spira contro di me con violenza, addolcendo piacevolmente la forza del sole. Buongiorno a tutti, buon lunedì, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi cominciamo una nuova settimana, l'ultima settimana di Voi siete qui, prima della pausa di agosto per poi ritornare a settembre. E come insomma, se siete ascoltatori, come avete potuto sentire, in questo mese di luglio abbiamo dedicato ogni settimana a un tema diverso. Il tema di questa settimana sono i viaggi e quindi io, appena si parla di viaggi, mi eccito subito perché ho la possibilità di riprendere in mano questo libro che è il libro di viaggio, è una sorta di prima guida sull'Italia in assoluto, scritta nel 1786. Lui si chiamava Goethe, e insomma è tipo il più grande scrittore tedesco di sé, è tipo il Dante. Adesso probabilmente i dantisti e i goethisti mi prenderanno a testate, però avete presente Dante? Ecco, Goethe che dalla Germania arriva in Italia e ne racconta la bellezza e la magnificenza. Questo è l'inizio, è appena entrato dal Brennero e si trova a Torbole. Vabbè, a parte realizzare che esattamente come oggi il vento cambia la mattina e la sera dalla ora che va da nord a sud o da sud a nord e l'altro vento che va da sud a nord, vabbè, insomma la spiega lui meglio di me. Descrive quel paesaggio in maniera magnifica e per queste 5 puntate apriremo sempre con una piccola storia che parla dell'Italia, che parla di questo viaggio che Goethe fece nel nostro paese. Ma cominciamo anche questa inizio settimana dedicata ai viaggi con una storia che arriva invece dall'altro capo del mondo. Gli italiani girano ovviamente dappertutto, vivono dappertutto. Fabio infatti vive all'estero e ci racconterà meglio. È un viaggio che lui fa a Cuba, in realtà è un viaggio, fa un campo di lavoro e in questo viaggio lui è lì nella sua tenda e a un certo punto lo chiamano e si trova davanti il ministro della salute. Fabio, esci dalla tenda che c'è qualcuno che ti vuole conoscere. Ecco, ci mancava solo questo. Dopo una giornata interminabile avevo appena chiuso la zip della canadese e mi stavo godendo la frescura della sera sotto all'enorme ficus del parco metropolitano della Havana. Chi diavolo ci sarà a rompere le palle a quest'ora? Lascio Chiara dentro la tenda, esco così com'ero, in mutande e maglietta. Alzo lo sguardo e mi trovo davanti un distinto signore circondato da guardie del corpo. Maura, la direttora del parco, mi dice: questo è il ministro della salute di Cuba. Voleva sincerarsi che la situazione fosse sotto controllo. Non mi aveva preso in contropiede, di più. Di ministri non ne avevo mai incontrati, e stringere la mano al primo ministro della mia vita finché ero in mutande mi pareva una cosa poco seria, ma ormai non è che potessi dire: scusa signor ministro, mi devo mettere i pantaloni. E quindi gli dissi: non si preoccupi, qui ce la caviamo. Ormai tanti anni fa, si parla di forse 13-14 anni fa, eravamo a Cuba, all'Havana, al Parco Metropolitano dell'Havana, eravamo un gruppo di 50 volontari e eravamo ospiti del parco dove dovevamo aiutare a rimettere in sesto il parco che era stato abbandonato ormai da parecchi anni. Qualche giorno prima, Maura ci aveva detto: Fabio, guarda che qui deve andare tutto bene, che si è raccomandato il comandante in capo in persona. E il comandante in capo non era niente meno che Fidel. Sì, proprio lui, Fidel Castro. Comunque sembrava che non ci facesse caso nessuno che io fossi in mutande, o forse sapeva fingere molto bene quel ministro, come molti dei ministri che mi è capitato di incontrare negli anni successivi. Chissà, forse li scelgono proprio in base a questo. Saranno quasi 15 anni fa ed eravamo animati dall'incoscienza di chi si sente nelle vene la forza di cambiare un mondo che non ha senso. Avevamo fatto un corso sulla cooperazione internazionale, con uno stage a Cuba, e avevamo deciso, un gruppetto di 4-5 i più affiatati, di fondare un'associazione per organizzare campi di lavoro nei paesi in via di sviluppo. La cosa diventò più grossa del previsto, e il primo intercampo, come lo chiamavamo noi, ebbe un'adesione di quasi 50 persone. Sarà perché era Cuba? Sarà perché era al Parco Metropolitano dell'Havana, abbandonato da anni e in bisogno di essere rimesso in piedi, ma ci trovammo a gestire un gruppo ben più grosso di quanto si potesse pretendere di fare alla prima esperienza in questo campo. Il ministro mi chiese: quanti di voi sono all'ospedale Machado? Io risposi: ad oggi sono circa una quindicina, compresa Elena che coordina il campo con me, quindi qui si tratta solo di limitare i danni, che con la diarrea ai tropici non si scherza. Da cosa pensate possa venire? Dalla torta che abbiamo mangiato l'altra sera, dissi io. Ma bastava dare un'occhiata ai cessi per capire da dove veniva la diarrea. Eravamo nel mezzo del periodo speciale a Cuba, dove non funzionava quasi niente, e tantomeno i cessi del Parco Metropolitano dell'Havana, dove c'eravamo accampati. Quindi ci sarebbe stato da stupirci se non si fosse ammalato nessuno. Ma io questo al ministro non lo potevo dire. Quindi diedi la colpa alla torta. En el platanal de Bartolo, a gozar en el platanal de Bartolo, a gozar en el platanal de Bartolo, a gozar en el platanal de Bartolo. Poi gli dissi: mi scusi signor ministro, ma ora mi fa anche male un po' la gamba, quindi mi devo stendere. A quel punto il ministro disse: bene, fatemi sapere se avete bisogno di qualcosa e noi cerchiamo di procurarvi tutto, compatibilmente con il bloqueo, cioè con l'embargo, che praticamente era parte di ogni frase pronunciata dai cubani negli anni 90. La gamba me la ero ferita cadendo in una trincea costruita per difendere la parte sud dell'isola contro un presunto attacco degli americani. Eravamo accampati lungo la spiaggia a Valle Verde, ai piedi della Sierra Maestra, non lontano da Santiago de Cuba. Stavamo cucinando gli spaghetti col sugo di aragoste sul fornellino da campeggio. Vado fino al recinto e dal buio spuntano quattro individui che parlavano di pescadores, mi pareva, ma invece dicevano peccadores, cioè peccatori, e mi mostrano dei volantini con immagini di Gesù e Compagnia Bella, che non mi ci è voluto molto a capire erano testimoni di Geova, che per carità non ho nessun pregiudizio, ma non mi puoi venire a parlare di Gesù quando gli spaghetti con l'aragosta sono quasi pronti. Quindi li ho mandati via non in malo modo, ma neanche con tanta gentilezza, e credo sia stato proprio Gesù a punirmi a quel punto, perché tornando indietro al buio sono caduto nella trincea fatta con i tubi di cemento che si usano per le fogne. Uno si era rotto e io mi ci trovo dentro con un bello squarcio sulla tibia che ormai praticamente mi si vede l'osso. Mi tiro fuori a fatica, ma prima di farmi medicare mi mangio gli spaghetti con l'aragosta. Dopo quella volta non ci sono più tornato, cioè c'ero stato una volta prima e poi quella è stata l'ultima volta. Poi di campi di volontariato come quello che è stato prima ne abbiamo organizzati molti altri e ancora adesso, dopo 15 anni, l'associazione è ancora in piedi e continua a organizzare campi di volontariato in tutto il mondo, si chiama Gruppo Yoda e abbiamo fatto dei campi in Vietnam, in Nicaragua, in Palestina, con il popolo dei Sahrawi e in tanti altri paesi. Poi, fortuna vuole che siamo accampati nel giardino della dottoressa del villaggio che disinfetta la siringa di quelle di acciaio, mi inietta qualcosa che avrebbe potuto anestetizzarmi e comincia a ricucirmi con un ago ed un uncino e una pinza. La scena deve essere stata interessante perché metà del villaggio che si era riunito a casa del dottore per vedere la telenovela nell'unica TV del paese abbandona lo spettacolo televisivo e si assiepa attorno al teatro dell'operazione, sospirando ad ogni gemito di dolore emesso dallo straniero, ovvero da me. Poi finisce che la ferita, una volta giunto alla vana, si infetta, ma almeno non prendo la diarrea, come la maggior parte degli altri partecipanti al campo. Sarà che io quei bagni non li volevo usare ed avevo trovato sistemi alternativi. Comunque, penso che mi ha portato bene incontrare in mutande il primo dei ministri che ho incontrato nella mia vita, perché quelli che ora incontro spesso per il mio lavoro non è che mi facciano una gran soggezione. Sarà che ad avere i pantaloni è molto più facile e mi sembra tutto in discesa. Oltre ai pantaloni, poi, ora ho anche la giacca e la cravatta che rende il tutto ancora più facile, per non parlare del biglietto da visita, con il nome di una delle organizzazioni di sviluppo più importanti del pianeta, che alla fine, anche se fossi mutande, secondo me, non se ne accorgerebbero in molti. Non è solo nella foto che ci ha mandato Fabio che trovate come sempre sul nostro sito, alla nostra pagina, voi siete qui a pagina radio24.it, è accovacciato con dei bambini sulle sue spalle che immagino siano i suoi figli, accanto a sé c'è una donna che immagino essere sua moglie o la sua compagna, con in braccio un altro bambino dai tratti orientali e sono accovacciati ai piedi di un enorme monumento coperto di giallo, tra l'altro credo, adesso azzardo, credo che siano in Thailandia ma solo perché so, ho sentito che vive a Bangkok. Pronto Fabio? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Sto benissimo, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Io adesso sono in Cambogia, però benissimo. Nella foto, come hai detto tu, ero in Thailandia, non a Bangkok, ma a Utaya, che è l'antica capitale thailandese. Giusto per confonderci le idee, Fabio. Allora, tu vivi già in Thailandia, in più adesso sei in Cambogia e la storia di Cuba, ma i puntini li uniamo e insomma e ci raccapezziamo nella mappa. Adesso sei in Cambogia in vacanza, per lavoro, per... No, sono in lavoro, sono qui per lavoro e tra l'altro la storia l'ho scritta con Dario in Birmania, quindi benissimo. Abbiamo aggiunto un'altra tappa ancora. Benissimo. Quando è che sei partito dall'Italia? E quando è e perché che sei partito dall'Italia? Sono partito 13 anni e mezzo fa e da allora ho sempre vissuto qui in Asia, tra la Cambogia, la Thailandia e poi lavorando un po' nei paesi limitrofi, Laos, Birmania, eccetera. E sei partito per lavoro, giusto? Perché tu lavori, dicevi, per la Banca Mondiale. Esatto, io lavoro per Banca Mondiale, quando sono partito lavoravo per l'Unione Europea e poi adesso dagli ultimi 3 anni lavoro per la Banca Mondiale, e che è un lavoro bellissimo per cui mi sento molto privilegiato. Che cosa fai esattamente per la Banca Mondiale? Ma non glielo dire, ma lo farei anche gratis, in poche parole aiuto vari governi a capire come possono ridurre la povertà nei loro paesi, usando il commercio come un volano per lo sviluppo. Praticamente significa identificare quali sono i problemi che impediscono lo sviluppo delle attività commerciali in un dato paese e poi definire delle politiche e delle strategie per risolvere quei problemi. Mi fai un esempio, tipo in Cambogia, adesso con chi stai parlando e di che cosa? Ma guarda, in Cambogia stiamo discutendo di quali sono delle regole che regolano il commercio, che stanno impedendo, che stanno creando dei problemi per le importazioni e per le esportazioni, quindi fanno aumentare i prezzi dei prodotti, eccetera, okay, oppure fanno perdere di competitività le esportazioni cambogiane. Quindi stiamo identificando quelle regole, stiamo discutendo con il governo su come possono essere migliorate e soprattutto su come si può mettere in piedi un sistema all'interno del governo per gestire questi problemi, insomma. Senti, invece allarghiamo un attimo il fuoco, nel senso che quando si parla di organizzazioni mondiali, no? Dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca Mondiale, non si capisce mai da che parte stanno, no? Se stanno dalla parte dei buoni o dei cattivi. Tu adesso in due parole mi dici che cosa fa la Banca Mondiale e mi spieghi perché è super buona la Banca Mondiale. La Banca Mondiale, allora, è super buona perché tutto quello che facciamo lo facciamo per ridurre la povertà, okay, nei paesi in cui operiamo, e quindi lo facciamo attraverso i governi e si lavora con i governi perché i governi poi mettano in piedi delle politiche che aiutano lo sviluppo delle popolazioni, insomma, okay, quindi non sono mai interventi diretti, ma sono sempre interventi attraverso i governi. Cioè, quindi siete dei nostri, giusto? Ma vorrei sperarlo, vorrei pensarlo, almeno quella è l'intenzione. Senti, e la strada per arrivare alla Banca Mondiale da Cuba, di fatto in realtà non è così astruso come percorso, cioè tu hai cominciato a voler fare cooperazione internazionale per lo stesso motivo per cui lavori alla Banca Mondiale, giusto? Corretto, esatto, cioè lo faccio a un livello diverso, l'ho fatto a livelli diversi durante i 13 o 15 anni in cui l'ho fatto, e tutti i livelli sono interessanti, ma all'inizio lavoravo con organizzazioni non governative, quindi oppure ancora prima con appunto i campi di volontariato, sì, all'interno di progetti di organizzazioni non governative, quindi come volontario, e poi un po' alla volta ho lavorato all'interno di progetti appunto delle ONG, e poi ho avuto questa opportunità di lavorare con la Commissione Europea. Insomma, sei arrivato dalla Commissione Europea alla Banca Mondiale, giusto? Esatto, però adesso stiamo tornando in Italia, abbiamo deciso di chiudere più o meno Baracca e Burattini, di tornare in Italia e di rilassarsi un po' e dare la possibilità ai bambini di vivere un po' in Italia, visto che hanno sempre vissuto fuori. Ma quindi, come dire, lasci la Banca Mondiale o riesci a lavorare da qui? No, riuscirò a lavorare come consulente dall'Italia, però facendo un po' di missioni sempre all'inizio, soprattutto in Asia, okay, però insomma stavo giusto per chiederti di radicarsi da qualche parte. Stavo giusto per chiederti come si vive a Bangkok. A Bangkok si vive bene, è una metropoli di 10-15 milioni di persone, dipende dalle fonti o dai momenti della giornata, e si vive bene, c'è tutto, però c'è anche molto traffico, c'è una grossa difficoltà a spostarsi da una parte all'altra della città, c'è inquinamento, insomma, quindi chiaro. Tutte le grosse metropoli, il bello e il brutto, insomma. E quindi dove tornare in Italia, dove pensate di tornare? A casa di chi? Tua moglie? In realtà a casa di nessuno, perché io sono veneto d'origine, mia moglie Barbara, che nella foto appunto è anconetana, e noi invece andremo a vivere in Umbria, però in un posto bellissimo che è l'ecovillaggio solare che è tra Perugia e Gubbio, che è l'ecovillaggio solare vicino ad Alcatraz di Jacopo Fo, e okay, noi saremo proprio tra i pionieri, tra i primi abitanti che andranno ad abitare lì, e cominceremo una comunità molto interessante, molto grande, che ha semplicemente voglia di vivere in un posto bello e di condividere l'amore per la natura e cercare di far crescere i figli in un posto un po' meglio di una città, insomma. Fabio, guarda, le persone come te mi danno una qualche fiducia per il futuro, nel senso che in realtà con gli anni che passano, quanti anni hai adesso, Fabio? Io ne ho 41. Ok, più o meno la mia età. Di fatto non ci si incattivisce, giusto? Cioè si continua a credere alle cose in cui si credeva. Ti ringrazio per la storia e soprattutto per la chiacchierata. Fabio, in bocca al lupo e buon ritorno in Italia, allora. Grazie a te, speriamo di vederci presto. Speriamo, ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Io ovviamente mi sono già eccitato tantissimo con questa questione dell'ecovillaggio solare e sono andato, mentre ancora stavamo parlando con Fabio, sono andato sul sito che è ecovillaggiosolare.it, ovviamente. Non riesco mai a capire se questi posti sono una figata oppure no. Ad occhio sembra di sì. Vabbè, però di questo ne parliamo un'altra volta, magari con Tiziano che è umbro e ne sa di più della zona. Intanto volevo ricordarvi, visto che continuano ad arrivare messaggi di persone che hanno storie da raccontare, che si trovano in vacanza, storie di viaggio, noi raccontiamo anche storie di viaggio, ovviamente. Questa settimana è dedicata tutta a quello. Ma raccontiamo storie che hanno a che fare con la vostra vita e che in qualche modo raccontino un pezzo di voi. In questa storia, ad esempio, era chiaro che Fabio è uno che ha incontrato un ministro della salute in mutande e poi si è messo a fare quel lavoro lì. E c'era un filo comune e raccontava un pezzo di lui. Basta un episodio che in qualche modo descriva chi siate, perché fate certe cose, un piccolo pezzo della vostra vita, una pagina, massimo due. Voi siete qui, @radio24.it, per passare invece una vacanza decente. Se avete voglia di leggere qualcosa, scaricatevi l'ebook gratuito di Voi siete qui, lo trovate dal nostro sito ovviamente di Radio 24, vi linka direttamente alla possibilità di scaricarlo. Ve lo dico già, non è in formato PDF, è in formato EPUB, quindi vi serve un lettore, un reader, ma non è così complicato come sembra, anzi è molto più semplice. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Fabio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.